che sale il suono della sabbia dentro un passaporto, l'odore del mare. In testa ho mille polaroid, se scuoto la testa mi ricordo, tutto riappare. Vorrei portarti dove il tempo si è fermato anni fa, dove non ci sono orari. Farti felice è un lavoro e per la tua felicità farei gli straordinari. Siamo solo noi, ti porto in un'estate che non finisce mai. Clessidre, poi rubiamogli la sabbia, facciamone una spiaggia. E ti proteggerò da tutto costruendoti una casa con le mie braccia. E sotto un cinema di stelle, noi sdraiati con gli occhiali tridimensionali, mentre affondiamo nella notte in mano due noci di cocktail e brindiamo a domani. Se vuoi, ti porto in un'estate che non finisce mai. E siamo liberi e leggeri, come astronauti nello spazio, a cavallo di una mezza luna in due senza casco, oltre i limiti del cielo, e le foto ricordo ce le fanno gli autovelox.